Riflessioni da Marte. Questo da Marte, quanto turbinare umano si è visto anche questa settimana, con politici che si dimettono per finanziamenti a tasso agevolato come solo in Germania sanno fare, dove spesso non serve nemmeno essere indagati dalla magistratura, magari basta aver copiato un pezzetto di tesi per sentirsi in dovere di fare le valigie e farsi da parte. E poi la Grecia ormai all'osso, alla quale si chiede tra un po' di dimezzare le poppate agli infanti per risparmiare, in vista di tempi ancora più magri. Ma in questa settimana in Italia si è parlato soprattutto di santi, Sanremo e San Valentino, che ha ispirato molte conversazioni sull'amore. Giovannardi, mi dica una cosa a proposito di risposte: se lei vedesse due ragazze che si baciano per strada, si tengono per mano e si baciano per strada, direbbe che schifo oppure finalmente qualcuno si ama? Guardi, o che altro? L'ho detto un milione di volte che ci sono situazioni e situazioni. Un nudista in un'isola di nudisti non mi dà nessun fastidio. Un nudista a Riccione sotto l'ombrellone, dove ci sono i bambini, le mamme, mi dà fastidio ed è fuori posto. Ecco, ma un uomo e una donna che si... Scusi, onorevole, mi faccia parlare un po'. Uomini o le donne che ostentatamente si baciano in un supermercato, dove si non baciano? È il luogo adatto per farlo, come ai figli dà fastidio persino quando vedono i genitori, eppure sono i loro genitori, che assumono atteggiamenti. Quindi mi scusi, Giovanardi, quindi c'è licenza di bacio per qualcuno e licenza di non bacio per qualcuno, non licenza io di detto, bacio? Ho dato licenza... Se lei fosse un attimo attenta e non fosse prevenuta nelle risposte, l'ho detto che io sto cercando di domandare anche davanti ai genitori, quando i genitori davanti ai figli si baciano, non possono piccoli o grandi hanno delle fusioni fra di loro, un bacio sono giustissime, ci mancherebbe altro, possono creare del disagio. Ma a lei dà fastidio, a lei personalmente, due ragazze che si baciano per strada? Personalmente in un supermercato, l'ho detto, o in ma a parte il supermercato luogo, diciamo alla stazione, in un luogo pubblico vedo due uomini che ostentatamente si baciano fra di loro. Ma non è ostentatamente, si danno un bacio, mi dà fastidio. Ecco, due ragazze che si lasciano alla stazione, una sale sul treno, l'altra lì sotto, due ragazze che si lasciano alla stazione, una sta due partendo col treno ostentatamente si baciano, ma sta partendo ostentatamente, questo verbo, scusi Giovanni, ma la lasci spiegare, ma c'è sempre una misura nelle cose. No, ma mi lasci spiegare, a lei dà fastidio uno che fa pipì? Dice no, perché uno va in bagno e fa c'entra? Pipì, ma che c'entra? C'è una cosa sconcia, se uno invece si mette Giovanardi, ma una cosa sconcia, Giovanardi, ma scusi, ma una cosa sconcia se una ragazza sta salendo sul treno, l'altra una giù si saluta, non si dà un bon ton. Donna Letizia lo chiamava il bon ton. Vabbè. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte y no verte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después.